Buon pomeriggio da parte mia, sono molto contento di presentare qua durante il festival I Fratelli Michelangelo di Vanni Santoni, pubblicato da Mondadori da ormai credo 2 mesi e mezza. E, io vi propongo una mia breve, personalissima reazione al libro, anche perché poi appunto volevo fare alcune domande ampie all'autore per poterne dialogare insieme. E cioè, volevo dire questo: io fin da quando ho letto il libro per la prima volta ho avuto un'immagine che ha continuato ad accompagnarmi da un certo punto in poi della storia e che continuo a, insomma, mi ha come fornito la chiave, che viene da una scena del Re Lear di William Shakespeare. A un certo punto nel Re Lear c'è il vecchio Gloucester, che è stato accecato da una delle figlie malvagie di Re Lear, che viene portato dal figlio sopra un sasso molto basso, e il figlio gli fa credere, visto che il vecchio Gloucester vuole morire perché la sua vita non ha più senso, tutto è andato a sfacelo, gli fa credere di portarlo in cima a una scogliera altissima a precipizio e gli dice suicidati. Il vecchio si getta e ovviamente a terra, è una scena teatrale a mezzo metro, quindi non si fa assolutamente niente, e il figlio lo convince che questo è stato un miracolo e quindi che la sua vita deve continuare. È una scena molto strana, è una scena anche molto difficile da rappresentare in teatro, ha sempre creato dei grossi problemi, ma per Shakespeare vuole essere appunto una sovrapposizione di apparente farsa all'interno della quale però invece si esprime una sorta di misteriosa e gioiosa resurrezione di significato. Che cosa vuol dire riprendere in mano una vita quando quella vita sembrerebbe non avere più senso? Per me questa immagine mi ha accompagnato molto all'interno del libro di Vanni. C'è un critico letterario francese, Jean Guiton, che diceva che un esercizio salutare quando si legge un autore o si vuole proporre un giudizio critico su di lui è di provare a immaginare di prendere una frase di quell'autore, un verso di un poeta, una frase di un romanziere, che in qualche misura ne esprima come la poetica, ne esprima come lo sguardo. Va bene? Ebbene, io l'ho anche scritto. Secondo me, se dovessi usare un'immagine di Vanni per esprimere la sua narrativa, userei proprio il titolo di uno dei suoi ultimi libri, cioè La stanza profonda. In fondo, tante delle opere di Vanni sono delle stanze profonde, cioè aver preso un aspetto, una cultura, un ambiente culturale condiviso, un'esperienza, come affondo attraverso il quale potersi affacciare sul mondo, una finestra attraverso la quale poter guardare in un determinato modo la realtà. In questo caso non si tratta della cultura free techno, non si tratta dei giochi di ruolo, non si tratta dei sogni, non si tratta degli psichedelici, si tratta in qualche misura di un uomo, di un periodo storico e di un tema. L'uomo è Antonio Michelangelo, il padre appunto dei fratelli Michelangelo, quest'uomo che ha avuto 5 figli da 4 donne diverse. Il periodo è il Novecento. Michelangelo quest'anno, tra l'altro, ricorre l'anniversario leonardiano, no? L'uomo universale. In qualche misura il Novecento è come se riproponesse anche nella figura di Michelangelo questa sorta di mitologia del fatto che ci sono state delle persone che potevano esercitarsi ed esprimersi in tantissimi campi contemporaneamente, all'interno di una grande azienda come l'IBM, come l'ENI. È al tempo stesso regista, romanziere, scultore. Quindi, come vi dicevo, un uomo, un periodo, il Novecento e un tema che è la paternità. Il romanzo ha un movimento centripeto e centrifugo. I figli escono da Antonio Michelangelo, vanno ognuno di loro a tentare una loro strada nel mondo e poi a un certo punto, per un richiamo di questo padre, alcuni addirittura scoprendo solo in quel momento di esserne effettivamente figli, perché alcuni di loro sono figli di Michelangelo a loro insaputa, tornano da lui che li convoca a Vallombrosa per comunicargli qualcosa. Quindi c'è un movimento da Antonio ad Antonio. Vanni ha scritto questo romanzo, che è un romanzo ampio, che quindi in qualche misura dialoga di per sé con le ambizioni dei grandi romanzi che vogliono essere, non so come dire, dei grandi romanzi che raccontano un periodo, un'epoca, che prendono di petto un tema vasto, e questo è una sfida importante, ma al tempo stesso anche molto pericolosa in letteratura. Io ne dialogavamo anche quando c'è stato il dibattito sul grande romanzo italiano sull'Indiscreto, su questo tema più in generale. Io dicevo e ho scritto che bisogna sempre stare attenti a quella che io chiamo la sindrome di Gerusalemme, no? Nella Bibbia c'è Davide e Salomone che costruiscono così tanto il Tempio che alla fine, quando il Tempio è perfetto, Dio non ci vuole più entrare, no? E questa è una immagine, secondo me, narrativamente molto bella del fatto, no, che un eccesso di intenzionalità poi di fatto fa fuggire lo spirito. Invece io lo dico, insomma, ci tengo a dirlo, che questa è un'ennesima stanza molto profonda. Ci sono tantissimi temi, ci sono tantissime questioni, è un romanzo profondo, sfaccettato, credibile, che riesce a raccontare tanto e bene degli ultimi 30 anni della storia italiana. Per quanto mi riguarda, una delle scene più belle è quella che è una sorta di petrarchesco trionfo del tempo, una pagina che Testori avrebbe potuto, si sarebbe secondo me divertito a scrivere in poesia, che è il momento nel quale uno dei figli, quando riceve questa, non so come dire, schiaffone mostruoso della scoperta inaspettata del padre, va in spiaggia, no? Come quando, e ci si concentra nei momenti, in questi momenti di notizie molto più grandi di noi, a volte su dei dettagli apparentemente insignificanti, no? E in quel momento questo figlio si sofferma sui tatuaggi delle persone che camminano sul bagnasciuga, e Vanni li fa veramente una sorta di trionfo del tempo, perché i tatuaggi di un uomo di 50 anni sono molto diversi dal tatuaggio di un ragazzo, di un uomo di 30, e ancora diversi da un ragazzo o da una ragazza di 16 anni di oggi. E quindi in quel momento questi tatuaggi è come se si animassero in una sorta di grande sfilata, no, degli immaginari personali e condivisi degli ultimi 30 anni di storia italiana, una sorta di, appunto, di vero e proprio trionfo del tempo. L'altra cosa che volevo dire è che, appunto, questo è un romanzo nel quale si sovrappongono tanti livelli ovviamente di per sé di lettura, dal semplice fatto che su 5 figli sono 4 che rispondono, quindi si potrebbe dire già i 4 elementi come nei 4 quartetti di Eliot. Il romanzo dialoga esplicitamente con tutta un'altra serie di testi importanti sul tema della paternità e della figliolanza, a partire dal titolo ovviamente con il romanzo di Dostoevskij, ma la cosa bella è che appunto vi si sovrappongono Thomas Mann, il dottor Faustus, la commedia all'italiana nelle sue fasi più gloriose e più significative, e questo mi fa tornare a quello che dicevo all'inizio sulla questione del salto, della farsa che diventa una commedia, ma una commedia nel senso profondo, nel senso di una commedia gioiosa, del fatto che alla fine la risposta finale nella vita è un sorriso e non è il pianto. Ci sono ovviamente, sono state date tante letture di questo libro, mi ha molto colpito che nel momento in cui lo stavo leggendo e ne ho dialogavo col mio direttore Francesco Disa dell'Indiscreto, nessuno conoscendo il parere dell'altro ci siamo detti che cosa ne pensavamo, e avevamo 2 letture completamente diverse. Questo è un segno di per sé già positivo della vitalità del testo. La mia personale lettura di questo libro è questa, cioè che nell'affrontare un tema così importante come la nostra gestione, la gestione delle nuove generazioni, del rapporto con i nostri padri, del loro rapporto con il mondo dell'arte, del lavoro, della cultura, della politica, nel rapporto appunto del nuovo millennio con il Novecento, rispetto a 2 modalità narrative immediate, importanti, ma a volte anche un po' adolescenzialmente facili, cioè quello della condanna e dall'altra parte l'altro elemento a sua volta è quello, fra virgolette, del perdono, no? Dei padri. Questo è un libro che invece, proprio per il fatto che, senza fare spoiler, però sfiora la tragedia, ma in realtà in qualche misura la gira e la supera con una soluzione particolare, secondo me, almeno a me, ha proposto una sfida culturale significativa, che secondo me tra l'altro è importante in un festival di letteratura sociale, e cioè che in fondo forse la nostra responsabilità più matura nei confronti dei nostri padri non è né di condannarli né di ucciderli, né di perdonarli, ma di fare un passo che queste 2 cose le comprende e le supera, e cioè è salvarli. Assumersi la responsabilità di salvare il padre, il Novecento e il passato. Detto questo, che è la mia personale lettura del libro, la prima cosa che in realtà ti volevo chiedere, Vanni, è a partire da una frase di Goethe. Goethe nel Faust dice: quello che te erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo. Nel bene e nel male. Volevo chiederti che cosa si devono riguadagnare nel bene e nel male questi figli rispetto al padre che racconti? Ah, intanto grazie alla Polveriera per questo invito all'interno del nostro amatissimo Festival della Letteratura Sociale, giunto alla quarta edizione e ancora più importante, visto che forse lo saprete tutti, ma questo spazio rischia uno sgombero perché la regione vuole farci degli uffici o forse soltanto vuole farci qualunque cosa pur di chiudere uno spazio di cultura e di aggregazione nel centro storico, e quindi a maggior ragione sono molto contento di vedere affluenza al festival e spero ce ne sarà anche domani e anche agli altri eventi che la Polveriera organizza. E, prima di rispondere, e poi probabilmente ti chiederò di ripetere la domanda quando avrò fatto tutto questo tiratone, io ormai ho capito che per un libro così lungo, l'ho capito perché questa è la 41esima presentazione, è indispensabile fare una piccola inquadratura, che non vuol dire spoiler, sono tutte cose che trovate nelle prime 60 pagine, e essendo il libro 600 è davvero una piccola parte, però mi serve per fissare alcuni punti che poi possono servire da appoggio per rispondere, altrimenti si rischia di andare un po' sull'astratto. E di cosa parla i fratelli Michelangelo? I fratelli Michelangelo racconta la storia di quattro fratelli, figli di madri differenti ma figli dello stesso padre, che un giorno nel 2007, siamo nel 2007, l'ultimo anno prima della crisi, quindi un anno di transizione, di cesura, un anno in cui eravamo già in questo secolo ma avevamo ancora una parte del piede piantata nel Novecento, un anno in cui già non si stava benissimo, l'Occidente e l'Italia non se la passavano proprio alla grandissima, ma ancora non c'era una crisi storicizzata. E quindi ancora magari si parlava di rimettere le cose a posto, oggi si parla già di ricostruire sulle macerie. Inoltre il 2007 è un anno liminale perché è un anno in cui cominciavano a far capolino alcune cose in forma ancora embrionale che oggi diciamo penetrano e traversano tutta la realtà. Non c'era ancora lo smartphone, ma c'erano i primi telefoni WAP che faticosamente andavano su internet, poi ti trovavi anche l'abbonamento a 3-4 giochi che non volevi, e non c'erano ancora i social networks, ma c'era MySpace, che era di fatto un proto social network che però ancora non aveva messo a punto le caratteristiche che poi hanno reso in qualche modo maligni i social network. In questo 2007 Antonio Michelangelo ha 77 anni, ha avuto una vita di grandi successi nel pubblico e grandi disastri nel privato. È stato un dirigente dell'Olivetti e poi dell'Eni, e chi conosce la storia industriale italiana sa che Olivetti e Eni rappresentano due realtà entrambe decisive della nostra storia industriale, ma molto diverse a livello valoriale, a livello di influenza sulla società, sono quasi antitetiche. E già forse il fatto che Antonio Michelangelo sia riuscito a farsi una carriera brillante sia all'Olivetti che all'Eni dà la misura in qualche modo della sua natura camaleontica. Poi, come tu stesso hai detto, ha praticato le arti, sempre considerandolo un hobby ma con buoni risultati. Ha scritto un libro, Serpi di Terra Bassa, sulla sua esperienza di partigiano ragazzino, anche se sulla sua effettiva partecipazione alla resistenza inizia a esserci qualche dubbio. Questo libro ebbe un buon successo, lo mise in contatto con gli ambienti intellettuali romani degli anni 60, che erano molto legati anche al cinema. Fece anche un film, La Sultana, un film un po' scollacciato di cui i suoi figli si vergognano un po', il tipo di film che potreste trovare nelle ceste a 9,90 euro del negozio di DVD, che però testimonia anche di quell'epoca in cui anche il cinema italiano di seconda o terza fascia esprimeva una certa autorialità, d'accordo? C'è chi ha pensato alla Cali, visto il nome di Bevilacqua, io pensavo più a un cinema simile a come possono essere le opere minori di Ferreri, però comunque quel tipo di cinema italiano che anche quando era di serie B o C imponeva immaginari forti, che infatti poi sono stati anche ripresi e copiati, e per tutta la vita appunto ha praticato anche le arti visive come incisore. Nel privato invece due matrimoni distrutti, figli abbandonati, un altro figlio seminato in una famiglia non sua, cattivi rapporti con tutte le ex mogli, quelle che sono vive, e con tutti i figli. Un disastro totale Antonio Michelangelo. I figli hanno rotto con lui completamente E però un giorno a sti figli arriva questa lettera molto accorata, molto altisonante, che li invita a recarsi in un posto preciso, in un giorno preciso, a un'ora precisa, la mattina del 21 giugno 2007 a Vallombrosa. A Vallombrosa, che più o meno conoscerete, località che ha avuto innumerevoli decadimenti, in un luogo preciso anche a Vallombrosa. Qua, io ho ritrovato questa cartolina d'epoca, vedete anche zigrinata, a Villa Fortuna, che nella realtà si chiama Villa Formenti, e che fu il casinò in quel breve periodo di circa 12 anni in cui Vallombrosa fu il ritrovo del jet set italiano, prima che venissero di moda le Alpi dopo l'annessione del Trentino Alto Adige. A Vallombrosa andavano tutti ricchi e tutti nobili e giocavano anche al casinò. Antonio Michelangelo sostiene di aspettare i figli qua quel giorno. All'arrivo di questa lettera le reazioni sono miste, ma un uomo di una certa età, 77 anni, che ha vissuto sempre in modo un po' sregolato, e insomma la prima cosa che viene in mente a tutti è che forse Antonio Michelangelo è alla fine dei suoi giorni e vuole fare testamento, o almeno rivedere questi figli, o almeno vederli per la prima volta tutti insieme. Di figli in realtà ne ha 5, c'è anche una figlia più vecchia, Aurelia, che è del 55, e forse il suo essere del 55 ormai la rende in prospettiva più simile generazionalmente a questo padre del 30 che a tutti gli altri figli nati fra il 70 e l'81. E lei infatti dice: no, io ho il babbo ho già dato. Lei non va, lei sa che il padre è un istrione, sa che dietro a questa messa in scena ci sarà sicuramente un suo volersi mettere in scena, dice proprio no alla lettera. Gli altri 4 invece vanno per motivi diversi. C'è Enrico, che neanche sa di essere figlio di Antonio Michelangelo. Enrico, la madre, era una delle molte amanti di Antonio Michelangelo, è cresciuto pensando che il mite professor Paolo Romanelli fosse il suo babbo, e non ne ha mai saputo nulla. Il babbo nel frattempo è morto, e quando a pochi mesi dalla morte di questo padre, che non era il padre, arriva la lettera di Antonio Michelangelo, la mamma decide che è il momento di rivelargli come stanno le cose. Lui ne rimane inizialmente inorridito: mi avete mentito tutti, ma io no, il mio babbo è Paolo, non questo Antonio Michelangelo. Però poi alla fine ovviamente la curiosità prevale, e quindi Enrico va per incontrare, per vedere almeno, si dice, questo padre che non ha mai conosciuto e che già inizia a vagheggiare. Dopo quel pezzo sui tatuaggi in spiaggia lo leggo, perché si parla anche di come Enrico inizia a immaginarsi questo padre che non ha mai conosciuto. C'è poi Luis, il figlio rinnegato, anzi si potrebbe usare proprio il termine legale, il figlio adulterino. Sapete che prima della riforma del diritto di famiglia nel 75 un figlio nato fuori dal matrimonio non poteva proprio essere riconosciuto, cioè per legge non aveva diritti. Esistevano dei dispositivi informali di riavvicinamento, tipo darlo come figlio della cugina morta ripreso in casa, o soluzioni di questo tipo. Soluzioni che però Antonio Michelangelo si guarda bene dall'attuare, perché nel frattempo, quando nasce Luis e dopo, il suo primo matrimonio è fallito da molto tempo, si è lasciato dietro la prima figlia Aurelia, e si è creata una nuova famiglia. Questi due marmocchi qua, che in realtà sono i figli di Gerard Richter, l'artista che ha fatto la copertina, potrebbero essere visti come i figli, gli ultimi due figli di Antonio Michelangelo, Cristiana e Rudra, quelli che si è fatti quando ha cercato di crearsi l'ideale borghese. Siamo negli anni Ottanta, tutto gira a meraviglia, Antonio Michelangelo decide di credere in questo mito della crescita, della carriera, fa carriera all'Olivetti e si dota anche, perché è imprescindibile, di una famiglia borghese. Si sposa con una ragazza dell'ottima borghesia fiorentina, fa due figli e cerca di creare proprio la famigliola felice. Ma essendo lui disastroso, anche questa famiglia si sfascia molto velocemente. E nel frattempo però questa famiglia aveva già chiesto un tributo di sangue molto forte, perché il bambino Luis, quello nato fuori dal matrimonio, era stato tenuto fuori, era stato allevato dalla madre come ragazza madre negli anni 70, quindi con un sacco di difficoltà, poi questa era pure morta giovane, e alla fine Luis se lo era accollato proprio la figlia più anziana, quasi a dire a Antonio Michelangelo: guarda, sono più madre io di quanto tu sarai mai padre. Questo Luis cresce quindi prima nell'infanzia in condizioni di indigenza, e poi dopo a Milano invece dalla sorellastra, che però nel frattempo è diventato un medico piuttosto importante, che lo manda a studiare all'Alberché, comunque frequenta la borghesia quattrinata milanese, e inizia a questo rancore fortissimo e latente che ha nei confronti del padre, alimentato da queste immagini in cui la madre cercava di strappare una reazione a Antonio Michelangelo, proprio girato da un'altra parte, non dire sciocchezze, e così, perché la madre era anche un'attrice, era convinta che Antonio Michelangelo le avesse rovinato la carriera non facendole fare un secondo film. E Questa famiglia salta in aria, questa seconda famiglia, quando i ragazzi sono adolescenti. E dunque anche Cristiana e Rutra in qualche modo hanno rotto col padre. Ma torniamo un secondo indietro a Luis. Luis, abbandonato, cresciuto a Milano, anzi cresciuto nella Milano da bere, identifica il riscatto con la svolta economica. Lui vuole svoltare economicamente e si butta insieme a un suo socio Carletto in una serie di avventure imprenditoriali sempre più ardite alla ricerca di fare uno svoltone economico velocemente nel sud-est asiatico, fino poi a buttarsi addirittura nel narcotraffico, onde velocizzare ancora di più queste operazioni. E una parabola che non avrà un esito particolarmente fortunato. Al momento dell'arrivo della lettera di Antonio Michelangelo, il socio di Luis è in un carcere di Jakarta, gli hanno appena spaccato tutti i denti. Sapete, in questi casi, e questo prelude poi a un'ulteriore violenza, cioè uno stupro orale di massa senza che tu possa difenderti mordendo. Sto qua è devastato, parla così perché non ha più i denti, quindi è pure ridicolo, piange. E Luis ha bisogno di soldi, ha sempre voluto la svolta economica, ma adesso ha proprio bisogno di soldi, perché quando c'hai un amico in un carcere a Jakarta, o alimenti il sistema corruttivo del carcere, corrompendo dal direttore all'ultimo aguzzino in modo da tenerlo in una cella singola, in modo da fargli arrivare il cibo, oppure quello è morto in sostanza. E quindi Luis, che non andrebbe mai perché lo odia sto padre, in realtà va non per curiosità come Enrico, ma perché spera che ci sia un testamento, spera che ci siano dei soldi. Alla fine Antonio Michelangelo è stato un alto borghese, spera che ci sia del cash o degli immobili, e un po' spera anche di prenderlo per il collo, di cogliere l'occasione per prendere sto padre per il collo e dirgli tutto quello che non gli ha mai detto. Poi c'è Cristiana. La rottura di Cristiana avvenne quando lei era adolescente, quando vide il padre cornificare serialmente la madre, separarsi a brutto muso e farne diverse, e forse anche lei non andrebbe, ma Cristiana in questo momento, nel momento in cui cominciano gli eventi del libro, sta cercando di sfondare nell'arte contemporanea. Ora sapete, l'arte contemporanea è uno dei mondi in cui è più difficile sfondare, no? Già le agenzie di senso e di valore sono in pochissimi posti, già devi andare a New York o a Londra, già Berlino o Parigi sono considerate sì ok, ma città di seconda fascia. E chiaramente per stare a Berlino o a Londra e avere abbastanza tempo per farti i contatti necessari a provare a entrare, già serve un budget non indifferente. E lei si trova a rimbalzare ormai da anni fra, prima va a Parigi ma nessuno se la fila, Parigi città privata chiusa, allora va a Berlino, c'è tantissimi artisti, c'è un periodo anche molto produttivo, però non c'è nessuno che compra, no? Allora dice no, una sua amica a un certo punto viene presa da Sacci Art e questa cosa un po' la fa sbroccare, dice no, allora io vado a Londra alla ricerca della svolta. E Cristiana in questo momento è in crisi nera perché ha 29 anni, sta per compiere 30, e per entrare nel mondo dell'arte contemporanea, quella che conta, fondamentalmente ci sono tre modi, due se non hai fatto un'accademia di pregio col massimo dei voti. Uno è venire rappresentati da una galleria importante, e l'altro è vincere una residenza per artista. Le residenze per artisti non sono come quelle per gli scrittori, in cui ti mandano a Volpiano a vedere se c'è uno spacciatore di oppiacei o a meditare il suicidio. Sono importanti perché sono legate a delle fondazioni, cioè sono legate alla Fondazione Prada, al Palais de Tokyo, al MoMA stesso. Quindi chi entra in queste residenze d'artista sta un anno a lavorare all'interno di queste istituzioni, e quindi se poi fa qualcosa di buono chiaramente ha buone possibilità per poi inserirsi. Solo che questi bandi scadono a 30, sono per giovani artisti, a 30 anni, quindi lei è in questo momento nel panico nero, ha finito i soldi, si trova a Londra. Non sa se, ormai non sa più se il suo portfolio è buono e cattivo, perché nelle arti sapete, quando non c'è mai il riscontro ci vuole molta forza d'animo per continuare a credere che quello che hai fatto sia buono o anche solo decoroso. Dopo un po' il dubbio di fare schifo ti viene, e c'ha un progetto per entrare nel Palais de Tokyo che sta coltivando, ma non la convince fino in fondo. Alla fine realizza che forse la cosa più interessante che ha, la cosa più strana che ha, la cosa che la coinvolge più emotivamente, la cosa migliore per farci una opera d'arte, è proprio la sua famiglia disfunzionale, il suo assurdo padre, il fatto che quest'uomo l'abbia chiamato in una località di montagna in un giorno preciso. Quindi prende parte, si arma di telecamera, macchina fotografica, tutto, e va a Vallombrosa per realizzare un'opera. E lei lavora con i video e con le foto sulla chiamata del padre, come a dire al padre: a te vuoi fare una messa in scena con noi? Allora io faccio una messa in scena con te e con gli altri. E quindi anche Cristiana va. E infine c'è Rudra. Rudra semplicemente ha sempre schivato i problemi, avendo capito di avere una famiglia che generava tensione. Lui già a 16 anni nonostante in quel periodo la famiglia fosse benestante, si era trovato un lavoro e aveva affittato un sottoscala a Gavinana pur di non stare con i suoi genitori. E anche a 21 anni, durante l'Erasmus, Rudra conosce un ragazzo, ha l'occasione di sposarsi e non se lo lascia dire due volte. Si sposa immediatamente in Svezia, rinuncia alle proprie ambizioni, lui era stato uno sportivo professionista, un biologo, però si mette a fare l'insegnante d'asilo e se ne sta lì in Svezia. Ha evitato tutto, però forse lui torna perché ha la sensazione di aver dimenticato qualcosa per strada. Cioè, chi scappa così velocemente magari poi gli rimane il dubbio di non avere il quadro completo, forse ha una nostalgia, forse li vuole rivedere Cristiana e suo padre. Comunque, fatto sta che anche Rudra va. Di conseguenza il libro racconta sul piano presente e l'arrivo dei fratelli Michelangelo da quattro angoli del mondo, perché al momento della lettera sono uno a Tel Aviv, uno a Bali, uno a Londra e uno a Stoccolma, perché come molti della mia generazione hanno cercato di realizzare le proprie ambizioni emigrando o anche solo l'ambizione di avere una autonomia finanziaria, e quindi sono tutti all'estero e tornano in Italia. E poi ci sono quattro grandi tuffi narrativi all'indietro in cui si racconta la storia di ciascuno di questi fratelli in ambiti molto diversi. La parte di Enrico è, si potrebbe dire, un'educazione sentimentale. La parte di Luis è un'avventura picaresca tra l'imprenditoria disastrata del sud-est asiatico e poi il traffico di stupefacenti, e la parte di Cristiana è una sorta di piccolo trattato narrativo sull'arte contemporanea e sulle sue storture, e la parte di Luis è un piccolo racconto mitologico sapienziale. Cioè, ho voluto raccontare la storia di un tizio normale, anche se con una sensibilità particolare, e come se fosse una figura della mitologia. A questo punto, come prevedevo, mi devi ripetere la domanda. Ma in realtà, nella tua sapienza, in realtà in parte ci hai già risposto, perché la domanda era, riprendendo la frase di Goethe, quello che erediti dai tuoi padri riguadagnatelo per possederlo, che cosa loro dovevano riprendere. In parte, cioè, già esplicitando anche soltanto dove sono e che cosa fanno, secondo me un po' hai risposto, però se lo vuoi ulteriormente approfondire, ben venga. L'altra cosa che però ci aggiungo è questa: se già ci puoi raccontare, aggiungo due elementi diversi, più stilistici, o meglio di stesura del testo, che però in realtà servono anche a capire qual è l'orizzonte immaginativo e anche tematico, e cioè qual è la prima cosa che hai visto di questo libro? Cioè, nel senso, hai visto il tema, hai visto un personaggio, hai visto un dettaglio intorno a cui poi si è agglomerato altro? E l'altra cosa, che secondo me è sempre interessante perché permette un po' di sbirciare nell'officina dello scrittore, quali sono le strade che magari hai inizialmente tentato stilisticamente, narrativamente, da cui poi invece sei tornato indietro perché non funzionavano e ti hanno permesso di mettere a fuoco come volevi raccontare questa storia a questi personaggi. Allora, quando questo libro era ancora un proto-libro, come esergo, ovvero sia la frasina per fare il grosso all'inizio del libro, ho messo John Milton: "He stood and called his legions in Vallombrosa where the Thurian shades high overarched Embower." Già mi piaceva perché c'era proprio Vallombrosa detto da Milton, e poi perché questo chi è che "he stood and called his legions" è Lucifero nel libro, no? Quindi questo già inquadra il padre, e le legions evidentemente sono i figli, no? Questo giochetto era troppo bello. Però nel proto romanzo io avevo messo una frase di Petrarca che era: "Dell'eredità dei miei passati avoli ni una cosa mi è rimasta se non l'onestà", che mi piaceva molto, mi ci riconoscevo molto. E comunque brave persone, grandi disastri, però tutti onesti. Poi mi sono reso conto che Antonio Michelangelo è maledettamente disonesto, ok? Fa finta, ha scritto un libro rubando l'identità a un altro ragazzino partigiano, e ha fatto adulteri seriali, ha abbandonato addirittura bambini, quindi questa cosa dell'onestà mi sembrava fuori luogo, e poi è emerso Milton. Però perché racconto questo? Racconto questo per arrivarci a questo Antonio Michelangelo che ti ha evocato, e perché questo era un personaggio nato per essere un personaggio negativo, d'accordo? Lo è di fatto, perché è un grande irresponsabile, lui rappresenta davvero il patriarcato nella sua essenza più pura e novecentesca, è quello che David Foster Wallace chiamava il grande maschio bianco eterosessuale. E pensando a personaggi come Updike o Philip Roth, o che tipo di personaggio? Quel personaggio che godeva di tutti i vantaggi enormi, posizionali rispetto a carriera, in generale controllo del mondo, derivanti dall'essere maschio, bianco ed eterosessuale, ma siccome questa cosa non era ancora mai stata problematizzata, si faceva come se fosse normale, dicevo guarda come è bravo, invece di tener conto del fatto che c'aveva un lieve vantaggio, no? In generale questo libro un po' tutto, anche nel confrontare Antonio Michelangelo che dal Novecento ha avuto tutto e i figli più talentuosi o che si impegnano più di lui e che non beccano un cazzo, è anche un libro, uno dei temi forti secondo me è la menzogna della meritocrazia, no? Cioè la meritocrazia è una parola abusata in politica che nasconde una menzogna straordinaria, che in realtà è tutto dipende dal livello di partenza, d'accordo? Che se te c'hai già 100 libri in casa, già parti in un modo che già all'elementare non si può più parlare di merito fra te e quello che di libri ce n'aveva zero, eccetera eccetera. Se te ti puoi permettere di stare a Londra 5 anni o qualcuno che ti finanzia, magari poi ti trovi pure una galleria. Se te ti puoi permettere a Londra di starci 3 mesi o e magari devi pure lavorare, magari la galleria fa più fatica a trovarla perché non c'è neanche tempo di andarla a incontrare. Questo si può ampliare a qualunque cosa. Cioè secondo me la meritocrazia è proprio un mito menzognero del nostro momento storico e mi piaceva scrivere un libro lo attaccasse a testa bassa. E forse infatti Antonio Michelangelo è un uomo non così geniale, molto versatile, perché sa, fa un po' tutto, questo gli va riconosciuto, nel senso ha fatto un film, ha scritto un libro, fa l'incisore, ha lavorato in aziende molto diverse, però non geniale in tutto, anche se inizialmente il nome è nato ribaltando Michelangelo Antonioni, che invece era un genio individuale. Questo, lui è più un uomo universale, un po' limata, un po' cialtrone. E io me lo immaginavo che alla fine in tarda età si rifà pure guru, cioè al matrimonio di Rudra Antonio Michelangelo non lo si vede da 10 anni, non si sa se verrà al matrimonio e si presenta conciato come Tiziano Terzani in tarda età con cappa bianca, sandali, barba e quant'altro, e la ex moglie dice mi toccava vedere pure questa, no? E lui cosa c'è? Perché si era un po' appassionato alla spiritualità, però essendo un accentratore tempo 3 mesi si era presente impossessato del corso di meditazione, era diventato lui l'insegnante. E perché poi invece questo Antonio Michelangelo non viene né dai figli, che alla fine tutti vorrebbero ucciderlo simbolicamente, tutti vorrebbero finalmente chiuderlo con questo padre, anzi sembra che ci sia l'occasione per il sacrificio simbolico del padre che è mancato alla nostra generazione, ma forse più si va avanti più si inizia a pensare che questo sacrificio potrebbe non aver luogo. E alla fine, vedendo le recensioni che sono uscite, vedi Antonio Michelangelo, per quanto sia il cattivo del libro, tende a stare simpatico. L'ho capito ieri durante la presentazione che ho fatto a Roma, e come mai forse? Perché lui ha una caratteristica odisseica, nel senso che lui è un inquieto, è uno sperimentatore sempre, cioè il suo tratto principale, anche se è un irresponsabile, un immorale, un assatanato, un manipolatore e quant'altro, innanzitutto è curioso, perché lui vuole sempre vedere e sperimentare le cose, e questo tratto è così umano e si rifà anche facendo Saulisse forse al personaggio più archetipico addirittura della letteratura e della modernità anche, e finisce per renderlo più simpatico. Vi faccio un esempio, vi leggo un pezzettino. Qui siamo negli anni Ottanta, proprio quando Antonio Michelangelo si è rifatto sta famiglia felice da cui inizia già a essere un po' disgustato. Hanno preso una casa in montagna, i figli sono adolescenti, preadolescenti, sono molto piccoli, 15 anni Cristiana, che è la più grande, e 12 Rudra. Ci fu tuttavia spazio per un avvenimento. Qualche giorno dopo, andando in mansarda dove dormiva Cristiana, onde riparare un'imposta di cui sentivo alla notte il cigolio, notai nel suo portagioie qualcosa, un dischetto rosa, una minutissima compressa. La scavai fuori dalle varie collane e collanine e la tenni davanti a me fra il pollice e l'indice, incrociandola a una lama di luce che dalla persiana tagliava la stanza. Oggetto curioso. Più piccola di qualunque pillola che avessi mai visto, era tuttavia più alta, un cilindretto. Inoltre era rosa, screziata di un rosso più scuro. E se da un lato aveva quella tacca atta a spezzarla in due coi denti, dall'altro recava il calco di un cuoricino. Si trattava evidentemente di una di quelle pasticche di ecstasy di cui blateravano i giornali. Cosa avrebbe fatto un padre normale? Inevitabilmente il tormentone venne a galla ancora una volta. Un padre normale mi risposi, avrebbe sequestrato la compressa, avrebbe atteso la figlia in soggiorno, seduto anzi in tinello, l'avrebbe estratta all'arrivo di lei e avrebbe chiesto spiegazioni. C'è qualcosa che devi dirmi? Ottenendo magari risposte quasi rassicuranti, ad esempio poniamo che quel puccio con cui si aggirava gliel'aveva messa in bocca e lei aveva solo fatto finta di prenderla. E perché allora l'aveva conservata? Ma davvero un padre normale era tenuto a educare i figli secondo le stronzate dei giornali? Sicuri che questa roba fa male poi? Forse però un padre normale sconsiglierebbe alla figlia anche l'assunzione di droghe salubri, perché a 15 anni l'edonismo può ben condurre a qualche rischio. Ma davvero per fare il padre, per farlo diciamo senza pensieri, visto che comunque bene o male lo sto facendo da 15 anni, anzi da 38, davvero si doveva aderire a simili sistemi di puttanate? Bah, dissi. Portai con me la compressa al piano terra e me la ingoiai con un bicchierino di Fernet. Grazie. E questo è Antonio Michelangelo, che poi farà una passeggiata per i boschi di Vallombrosa molto particolare, sicuramente molto, molto energica ed empatica. E le prime immagini. Questo libro nasce da tre immagini tutte scollegate che non erano niente. Io volevo scrivere un grande libro transnazionale, lo sapevo che lo volevo fare perché ne avevo già fallito un altro, che infatti è rimasto nel cassetto. E l'avevo scritto nel 2009, quando proprio non avevo l'esperienza per tenere insieme tutti questi piani narrativi. Qua ci sono 12 piani narrativi, 20 piani temporali, 5 protagonisti, e devi avere l'esperienza per fare questa cosa. E mentre quando sei agli inizi e sei 2009 credi di avere il genio, non hai l'esperienza e credi di avere il genio, poi scopri il genio non averlo, e quindi l'esperienza è davvero molto importante. E prima immagine è quella che ho raccontato prima. Avevo visto un documentario sulle Maras, sapete, tipo la Mara Salvatrucia, sono quelle gang giovanili cattivissime dell'Ecuador e del Centro America, e in cui ti spiegavano quanto eri nella merda se finivi in un carcere di quelli controllati dalle Maras. E mi venne questa immagine di uno che, a cui avevano appunto rotto tutti i denti per i motivi che vi ho detto prima, perché mi interessava proprio questo cortocircuito di dramma ulteriore, no? Cioè il fatto di non avere più i denti è ridicolo, non ti fa parlare in modo ridicolo, parli come Paperino. Però sei uno che invece avrebbe bisogno di almeno una stilla di dignità, no? Quindi sei umiliato e offeso, in più non puoi neanche parlare decorosamente. Tutto questo era così drammatico che mi interessava. E poi ho visto che c'era qualcuno, in questa immagine c'era qualcuno a trovarlo, e quindi ho iniziato a vedere un'ipotesi di narratività. Perché uno è fuori e l'altro è dentro? Perché è andato a trovarlo? Questo si sente in colpa, è corresponsabile, l'amico è dentro al posto suo, hanno fatto qualche casino insieme e l'ha pagata solo uno di loro? È nata questa idea, che poi si è collegata a una vicenda reale che è avvenuta in Toscana ormai ventina d'anni fa, di un tizio che mise su un traffico di coca personalmente, senza avere i contatti, direttamente dal Sud America a Bali. E questa operazione sul breve fruttò un sacco di soldini, ma appunto durò poco. E Bali è, okay, è il regno del villaggio turistico in cui si balla, si tromba e ci si droga, ma Bali è in Indonesia, che è uno dei posti che ha le leggi più proibizioniste al mondo, uno di quei posti che se ti beccano l'aeroporto anche con un seme di ganja ti passi un brutto quarto d'ora e ti condannano a 10 anni. Questo tipo nella realtà venne condannato a morte e poi successivamente riconfigurato in una lunga sentenza che peraltro è finita da poco. Ecco, questa vicenda anche mi interessava, no? Cioè l'italiano che si improvvisa narcotrafficante fra due paesi peraltro lontanissimi per alzare dei soldi veloci. Combinando queste cose pian piano ha preso forma la storia di Luis. Poi c'è un'altra scena. Un giorno ero a casa, guardavo tutti i miei libri. Allora, i miei libri sono tutti disordinati, non sono in ordine di editore, autore, niente, neanche colore, come ho visto in alcuni casi, sono in ordine di potere, nel senso che i libri meglio li metto tutti vicino e poi pian piano meno sono buoni e li metto lontano, quelli proprio brutti li metto negli sportelli così non li vedo. E è come se fosse un tempio, ecco. E vabbè, me ne stavo a guardare questi libri e notai che prendendo in mano questi libri non mi ricordavo tanto cosa c'era scritto dentro, ma più il momento in cui l'avevo letti, dove l'avevo comprati, chi me l'aveva regalati. Cioè il libro aveva un effetto di Madeleine proustiana, ma molto più esterna che interna. Presi appunti, li trascrissi tutti, in un giorno e mezzo. Questa scena non c'è, ma c'è, nel senso che è diventata una scena molto più piccola in cui Enrico, quando scopre che suo padre non è il professor Paolo Romanelli ma Antonio Michelangelo, va nella casa dei suoi genitori e guarda la biblioteca e inizia a capire che alcuni libri più arditi, i Cioran, i Céline, addirittura Artaud, che c'erano nella parte della biblioteca della mamma, che per il resto è una donna molto tranquilla e allegrotta, con gusti molto più semplici da un punto di vista, mi ricorda la Sandra Milo di 8 e mezzo, dice, oh, certo la mamma comunque faceva letture impegnative, e poi inizia a rendersi conto che quei libri erano arrivati in casa da Antonio Michelangelo. E poi c'era una terza scena che è proprio saltata, però è servita. Mi immaginai una dottoressa, un medico di un certo rango, forse proprio perché avevo incontrato un mio amico che mi aveva raccontato una vicenda assai simile, e una primaria che alla fine di una giornata lavorativa dice alla caposala, ora nessuno mi rompe coglioni, chiude la porta, sbarra tutto l'ambulatorio e poi si fa una bella inframuscolo di chetamina e sprofonda in un grande rilassamento. Ecco, da questa figura, dall'idea di una donna di una certa età, medico, che guarda gli eventi un po' dall'esterno, che non ha bisogno di essere coinvolta negli eventi, è nata la figura di Aurelia, la più grande delle figlie, quella che non va alla chiamata del padre. Solo che poi Aurelia è uscito un personaggio di enorme rigore, che non sottrarrebbe mai e poi mai un farmaco dell'ospedale per farne uso voluttuario, sarebbe completamente fuori personaggio, e quindi questa scena semplicemente, come tante, è stata fatta fuori, però il personaggio è nato lì, e poi da lì si è cominciato a montare. I personaggi in qualche modo sono nati uno dietro l'altro, non che quando uno era finito nasceva l'altro, quando stavo a un terzo di Enrico nasceva Luis, quando era a metà Luis andava a un terzo e nasceva Cristiana, e pian piano si sono formati, e in negativo poi è apparso Antonio Michelangelo, perché io inizialmente non credevo che questo libro avesse così al centro la figura del padre, il confronto fra generazioni. Io tuttora penso che il vero tema del libro sia il confronto fra ambizione e trascendenza, cioè che la realizzazione materiale non ha niente a che fare con la realizzazione spirituale o interiore, mettetela se vi torna meglio, se siete materialisti, no? E quindi qui c'è un cortocircuito, d'accordo? Perché ci hanno venduto invece un altro mito, quello della realizzazione che passa attraverso o beni materiali o riconoscimento sociale, mentre una realizzazione reale, interiore, profonda, e se vogliamo addirittura spirituale, evidentemente gli altri possono pure considerarti matto, non è assolutamente rilevante, è soltanto una cosa che sai te e che però ha sempre la difficoltà di ancorarsi, d'accordo, all'idea di averlo raggiunto, perché in quanto umani molto spesso ci giudichiamo attraverso il giudizio degli altri. Cristiana, che è una grandissima artista, io ho scritto il portfolio di Cristiana, ho preso alcune delle opere più importanti della storia dell'arte contemporanea recente, fra roba nota solo agli addetti ai lavori, ho scelto quelle che avevano dei punti in comune e ho ricomposto un portfolio immaginario di opere tutte fondamentali, quindi se Cristiana avesse davvero fatto quelle opere sarebbe oggi l'artista contemporaneo più importante al mondo, e comunque non ce la fa proprio, d'accordo, a sfondare, trova un mondo che proprio non è in ascolto, quindi lei proprio patisce questo bias, no? Di fare qualcosa di straordinario, ma se non c'è nessuno che ti dice sei bravo, dopo un po' inizi a pensare pure tu di non esserlo, ok? E quindi sono nati in questo modo, e poi questo Antonio Michelangelo doveva essere il MacGuffin, no? Il dispositivo volto solo a prendere sti figli e portarli nello stesso luogo per raccontare le loro storie, perché poi a me quello che interessava era raccontarla questa generazione esplosa, scagliata nei paesi più assurdi alla ricerca di svolte che forse proprio non possono più arrivare per quanto è cambiata la congiuntura socio-economica. E niente, è venuto fuori anche questo babbo, si è ingrandito, è diventato un personaggio che mi divertiva molto, e quindi poi ora il quinto protagonista certo è Antonio Michelangelo, era imprevisto questo. Certo. E senti, volevo chiederti una cosa su come il libro è stato recepito, ma prima volevo chiedertene un'altra che a me interessa sempre tanto, cioè che in realtà appunto quando uno scrive un libro e la scrittura di quel testo getta un'ipotesi diversa su tutto quello che uno ha letto e ha amato e magari è andato anche a rileggere mentre stava facendo quel lavoro. Quindi io ti volevo chiedere, nei libri, nei film, nei fumetti che hai riletto perché stavi facendo questo libro, che cosa ti ha colpito di nuovo? Che ipotesi diversa ti ha dato questo libro nel rileggerti Thomas Mann, Dostoevskij? Che cosa ci hai notato di diverso? Come se fosse una sorta di lente di ingrandimento, di filtro? Beh, io ho letto libri mirati per questo libro solo quando ero abbastanza avanti con i lavori perché avevo paura di essere condizionato, anche sulle riletture, perché per esempio I fratelli Karamazov l'avevo letto a 19 anni, quindi 20 anni fa, e non mi ricordavo nulla in buona sostanza, e quindi avevo paura di scoprire che alcune mie idee che mi sembravano ganziali lì dentro fossero idee dei fratelli Karamazov che ci avevo messo, perché nel frattempo mi ero dimenticato. Questa cosa capita spessissimo. Io, a un certo punto, io negli interessi in comune, a un certo punto c'è un tizio che è completamente in acido, esce fuori e io scrivo: il mondo era una foresta di simboli, no? Io, boh, madonna, cazzo, spacco troppo, me lo rileggevo, dicevo, minchia, sono troppo bravo. Poi uno mi fa: bella la citazione di Baudelaire. Ah, ok. E capita continuamente di fare citazioni o rimandi involontari, ed è anche giusto che avvengano. Io quindi avevo paura dell'autocensura, cioè mi dicevo proprio: se rileggo I fratelli Karamazov mi rendo conto che un qualche dispositivo decisivo di sto libro viene da lì, poi magari mi blocco, mi inibisco e non lo metto. Quindi ho riletto I Karamazov, I Buddenbrock e Cent'anni di solitudine, diciamo le tre più grandi saghe familiari del canone, quando il libro era sulla tre quarti. E una cosa c'era, e un elemento karamazoviano c'era di brutto. Quando i fratelli arrivano a Vallombrosa, Enrico, che dei vari fratelli è quello che ha sempre più perseguito una realizzazione attraverso la dimensione sensuale, trombando, ovvero, e ha sempre vissuto piuttosto a pipiritto, incrocia nella rete che separa il bar e l'alimentare, quindi è la parodia di una scena bucolica, no? È una rete con un rampicante, però siamo fra il bar dell'alimentare di Vallombrosa e cioè fra il bar e l'alimentare del Saltino. Io avevo in mente quella scena attraverso l'acquario di Romeo e Juliet, presente la riedizione moderna di Romeo e Juliet nel film. E vede una ragazza, lui essendo uno di quelli che appena vede una che c'ha un incrocio di sguardo si è già innamorato, ovviamente se ne innamora, lei no, però ha appena fatto una litigata, insomma ci sono tutta una serie di condizioni che fanno sì che un secondo in più a questo sguardo di uno sconosciuto, anche per la sorpresa di incontrare un suo coetaneo in un posto ormai completamente morto e deserto, gliela dà. E quindi da questa scintilla poi partirà un innamoramento, e Enrico non sa che Nicoletta altri non è che l'ultima più recente giovane fidanzata di suo padre, è la ragazza di Antonio Michelangelo, e quindi da lì incomincerà il più freudiano ma anche il più dostoevskiano dei conflitti, cioè la lotta col padre per il possesso della donna. E per quanto riguarda Thomas Mann invece mi sono sorpreso anch'io, ho riletto I Buddenbrock trovandolo meraviglioso e anche scoprendo che 20 anni fa l'avevo lasciato a mezzo perché era tutto piegato fino a un certo punto, poi intonse come libri di studio, no? Ma che ne sapevo, ero stupido, non mi rendevo conto di quanto era bello. A questo giro l'ho letto e era bellissimo, però non è che mi abbia influenzato molto. Quello che invece mi ha influenzato è stato il Dr. Faustus. A un certo punto in questo libro ero in crisi, non riuscivo a svoltare la parte di Rudra e anche Cristiana mi dava qualche problema, dissi affidiamoci a Thomas Mann, mi lessi Dr. Faustus, da lì sono arrivate delle idee, mi ha dato le suggestioni che poi sono finite un po' nel libro. Invece, come ti accennavo, ti volevo chiedere in questi mesi in cui il libro è stato letto, recensito, in cui hai fatto un sacco di presentazioni, quali sono state le letture, cioè le interpretazioni del libro che ti hanno più colpito, divertito, magari irritato, che magari ti hanno fatto notare in maniera diversa e significativa degli elementi che tu per primo non avevi così chiari? Ma riscontri ci sono stati tanti, sono stati belli, ovviamente quando la porta ha detto era troppo lungo mi ha irritato, perché cioè che cazzo vuoi, a un certo punto se mi è venuto 600 pagine è il mio decimo libro, vuol dire che deve essere 600 pagine, certamente ho anzi tagliato, ma quello, a parte quello mi ha irritato per una mezza mattinata e non di più, anche perché comunque nella sua recensione, nonostante ci fossero critiche, c'era un bel disegno di Antonio Michelangelo e notava molto bene una caratteristica di Antonio Michelangelo, il fatto che lui in ultima istanza si piace così tanto e tende a pensare che tutti gli altri si piacciono quanto lui si piace, ed è lì che nascono molte delle distorsioni percettive di Antonio Michelangelo. Addirittura Antonio Michelangelo arriva a definire, guarda il Cristo e dice: Madonna, certo, ha fatto proprio una bella messa in scena, no? Cioè vede la crocifissione come, e lo è per certi versi, però insomma, Sì, ci vuole anche un po' di coraggio per fare una messa in scena in cui ti ammazzano, però chiaramente è una forma di performance art vista da un certo punto di vista, però ci vuole una certa visione del mondo per vederla in questo modo. E, mi è piaciuto molto capire delle cose nuove sul libro. Una è successa di ora, ne sono state dette tante, perché sono state scritte una settantina e sono belle. Mi piace il fatto che Antonio Michelangelo venga associato a cose diverse. Tu l'hai associato al secolo, al Novecento, qualcuno l'ha associato alla tradizione romanzesca ottocentesca da superare, qualcuno ci ha visto un iperpadre, un padre allegorico, quindi un personaggio, l'unico personaggio volutamente non realistico del libro, che è in parte vero, nel senso che Antonio Michelangelo è sempre raccontato attraverso gli occhi dei figli, d'accordo? È sempre visto attraverso una prospettiva altrui, di molte persone, si ricompone come un prisma, ma difficilmente, raramente parla lui, e quando parla lui probabilmente mente, va per omissioni, cioè essendo uno dei grandi maschi bianchi, anche la riscrittura della propria autobiografia in tempo reale era un'altra tipica caratteristica del patriarca novecentesco. Pensate a uno che la stronzaggine del maschio bianco forse è un campionissimo, almeno a livello italiano, come Montanelli. Montanelli riscriveva la propria autobiografia continuamente a seconda delle esigenze e delle contingenze del momento, era proprio una delle sue attività costanti. Poi tutti noi lo facciamo, intendiamoci, ogni stortura è sempre l'esagerazione di qualcosa che però tutti facciamo, perché chi non ha mai ritoccato anche solo nel pensiero la propria biografia, no? Cioè banalmente, se io penso alle cose migliori che ho fatto più spesso mi sento ganzo, se penso alle cose peggiori che ho fatto mi sento sfigato, se non un delinquente, e quindi anche questo è in qualche modo riscrittura interiore della propria biografia. Antonio Michelangelo la pratica in modo, diciamo, estremo, visto che si scopre a un certo punto, e questo è un gesto davvero meschino, che si è andato a fare negli anni 60 al porto di Livorno, era uno dei pochi posti in cui ci si poteva tatuare, un tatuaggino di un'ancora qua, proprio come quello che in Serpi di Terra Bassa un partigiano ex marinaio fa con l'ago al ragazzino, quindi di fatto crea questa cosa per rinforzare segretamente l'impressione che Serpi di Terra Bassa sia basato su un'esperienza reale, e questo è un gesto molto meschino di riscrittura della propria autobiografia. E poi una cosa che mi è piaciuta è stata la lettura di Carlo Mazzagalanti sulla questione del tu, cioè c'è il libro è scritto in terza persona, poi i singoli protagonisti parlano ognuno in prima persona, a parte Rudra che è scritto col tu. Questo Rudra col tu io l'avevo scritto perché volevo riprendere proprio il racconto sapienziale, il libro tibetano dei morti, ma anche le lamine d'oro orfiche. Tendenzialmente la tradizione sapienziale, anche i tantra, sono al tu, sono dialoghi, ma addirittura basta pensare anche ai dialoghi platonici, banalmente. Il tu c'è perché sono guide, no? Sono istruzioni per l'uso, sono modi per immedesimare. Quindi, siccome volevo raccontare la storia di un tizio normale come se fosse mitologia, ho utilizzato il tu. In più c'è un'altra lettura, diciamo, meta letteraria. Se il libro fosse stato scritto da Enrico, perché Enrico si capisce che ha abortito delle velleità letterarie, ma forse dopo gli eventi clamorosi che gli capiteranno le riprenderà, se il libro avesse scritto lui in vari punti del libro dice: io con questo Rudra non mi ci identificherei mai, e quindi questo tu rappresenta un po' la sua incapacità di identificarsi con Rudra. E poi però a volte le soluzioni sono più semplici. Carlo Mazzacalanti sulla recensione di Esquire ha detto: oh, bellissima la soluzione ritmica di passare dopo tre io al tu. E forse a volte, anche se io avevo in testa spiegazioni ultra complesse, era anche quello, che dopo tre parti lunghe che parlavano in prima persona, fare uno scarto di prospettiva, riportarla a un tu che è in qualche modo più vicino alla di nuovo terza persona in cui finisce il romanzo, è una soluzione ritmica efficace, venuta per intuito ma a cui io non avevo pensato. L'ultima cosa volevo chiederti, per poi leggere, anche perché secondo me siamo in orari giusti per chiudere più o meno, è la questione delle tragedie aggirate, il tema della farsa, no? Ce n'è più di una, e questo secondo me è un tema importante, perché secondo me non è semplicemente il fatto, come una sorta di giudizio sul che oggi l'immaginario tragico che in qualche maniera abbiamo ereditato come unica soluzione possibile, forse anche come unica grande soluzione nobile all'interno della letteratura, non è più possibile. Secondo me c'è anche un altro elemento, cioè che si inserisce in quello che è la mia lettura del libro, e cioè il fatto che in realtà la commedia è una assunzione di responsabilità, non è una fuga dal problema, No? Noi a volte tendiamo a pensare che appunto l'impatto, il cortocircuito, il dramma, il sangue sia la soluzione alta, in qualche maniera un giudizio più elevato su un problema, anche nella sua irrisolvibilità. Mentre invece all'interno del tuo libro ci sono, c'è molto questo tema del fatto che quello che sembrerebbe portare verso un conflitto, verso una sconfitta, invece paradossalmente a un certo punto ha uno scarto che potrebbe quasi, che a una prima occhiata è persino ridicolo, ma che invece secondo me contiene il fatto che in realtà, come accennavo prima, le cose possiamo assumerle e superarle anche con una soluzione positiva. L'elemento che dicevo del fatto che i padri, le eredità scomode, persino i limiti che questo passato ci ha imposto possono essere salvati, i figli possono diventare padri dei padri. Sì, siamo a bordo spoiler in un modo proprio, ma tipo sport estremo proprio. E io quando scrivevo questo libro, questo libro comincia in modo buffo, dopo magari vi leggo proprio l'inizio di Enrico per capire il tono con cui comincia, poi via via diventa sempre più drammatico, no? E Enrico è buffo, parla di avventure sessuali, alcune riuscite, altre più disastrose, e educazioni sentimentali in licei di provincia, disastrati di per sé. Luis è drammatico ma scritto in modo buffo. Luis racconta una serie di disavventure invero tragiche, prima fallendo nell'imprenditoria e poi ancor più rischiosamente fallendo nel narcotraffico, però lo racconto, siccome sono due picari, sempre in un modo che fa un po' ghignare. Ci sono delle parti in cui comunque si ridacchia anche quando gli succedono le cose peggiori. Cristiana invece raggiunge una piena drammaticità, cioè Cristiana è, diciamo, trae la sua forza da altre cose, dal fatto di essere un trattatello sull'arte contemporanea, però è una vicenda drammatica di solitudine, dolore, eccetera. Rudra va ancora oltre, perché va verso gli assoluti, essendo una vicenda quasi proto-religiosa, e io avevo in mente che questo crescendo durasse tutto il libro, cioè che questo libro dovesse concludersi con una vera e propria tragedia greca, cioè una situazione di dramma assoluto. Tant'è che mi ero pure riletto tutti i nostri bravi greci per innervarmi di dramma assoluto. Poi mi sono reso conto che sarebbe stato ridicolo, perché nell'Italia del 2007, come quella del 2019, purtroppo non ci sono più le categorie della piena tragedia. C'è sempre e questo forse è anche una cosa che crea un limite a volte all'azione politica, no? Cioè c'è sempre una dimensione farsesca, c'è sempre qualcosa che in fin dei conti è buffo, ridicolo, cui si può ironizzare o fare sarcasmo, no? È come se l'Italia contemporanea, ma forse chissà, è un tratto che si perpetua da molto tempo, non avesse mai la piena nozione del dramma, anche quando il dramma c'è. E quindi mi sono reso conto che un finale farsesco sarebbe stato più adatto. Se qualcuno vuol chiedere qualcosa, se no leggo. Questa lettura ormai è classica, mi dispiace per chi l'ha già sentita, però ormai è diventata l'invito alla lettura finale. Siamo all'inizio di Enrico. Enrico, in questo momento è a Tel Aviv, perché l'uomo che ha sempre creduto essere suo padre, il professor Paolo Romanelli, che era ateo, quindi non aveva mai parlato di queste cose, quando è morto è venuto fuori che era ebreo, e la madre aveva detto no, ma facciamo il funerale ebraico. Diceva, boh, ma perché? Cioè la madre è un po', poi la conoscerete in questa lettura. Lui però da questa cosa rimane un po' colpito, perché lui appunto questa sua vita sempre improntata al sensuale, questa realizzazione esistenziale solo attraverso una serie infinita di relazioni erotico-sentimentale, sta iniziando a soddisfarlo sempre meno. E quindi in qualche modo va là alla ricerca delle proprie radici spirituali, senza sapere che poi, visto che suo padre non è il mite professor Paolo Romanelli, ma il luciferino Antonio Michelangelo, quelle radici non sono le sue. Quindi in qualche modo si troverà fuori dalla storia e alla ricerca di un altro padre. Comunque in questo momento a Tel Aviv riceve una telefonata. Senti Henry, ti devo dire una cosa, vieni a Viareggio. Si capisce che se tua madre ti telefona a tarda sera mentre sei all'estero e attacca così, senza prima chiedere come stai, come sta andando il viaggio, se hai mangiato sano, cosa hai fatto durante il giorno, senza lamentarsi che ieri non l'hai chiamata e soprattutto senza dire la cosa subito, lei che in genere ti tempesta di informazioni anche inutili, ti preoccupi, pensi subito a dei gran casini, il tempo di arrivare a dire che c'è ma? E la stanza viene giù, il telefono nella mano diventa l'unica cosa ferma, mentre gli scaffali pieni di volumi dalla costola incomprensibile, i quadretti buffi al muro, la scrivania piena di album da disegno e bottiglie di birra trasformati in vasi da fiori, tutti gli oggetti di questa gente che ti ha affittato casa per un mese precipitano in una vertigine di pensieri oscuri e generici, punti di nero fumo in fondo, i peggiori, l'ombra della malattia, della morte, tutto un carico di dolore, sbattimenti e responsabilità da gestire. Mi do aria da persona in pieno controllo. La gente ci crede pure, anche un po' io, ma sono ancora per lo più confuso. Se ora accadesse qualcosa anche alla mamma, mi toccherebbe mettere davvero ordine, un ordine radicale, rapido e quindi approssimativo. Io che ho sempre organizzato l'esistenza allo stesso modo in cui si fa un acquarello, mentre quello in arrivo sarebbe un ordine spietato, architettonico, foriero di cambi in peggio di un paradigma che, a parte le solite cose, il denaro che potrebbe essere di più, l'assist da fare, il periodo di supplenze che ne seguirebbe prima di poter aspirare a un posto di ruolo, non si è neanche assestato male, proprio niente male, un buon disegno, un passo dignitoso, un'esistenza che si sarebbe potuta dire forse immatura ma godibile, sporcata giusto da un panorama di ansie in fin dei conti vaghe. Saranno 2 anni, anzi 3, che non piglio un mezzo Xanax. Mamma, se dici così mi preoccupo. Ti preoccupi? E di cosa? Ansie vaghe, ma pronte a tornare, a precipitare. La sensazione di essere su una nave di cui non si è mai vista la sala macchine. La possibilità che non ci sia alcuna sala macchine. La sensazione di stare in un mondo mosso da rotelle che si formano per pura contingenza nell'entropia. Per forza le persone, quando i genitori invecchiano, si ammalano, muoiono, corrono a sposarsi, si impegolano in mutui, si riproducono, sebbene il giorno prima si lamentassero di non aver soldi neppure per sé. Almeno si collocano in mezzo a qualcosa. Piccoli sistemi di spazio-tempo all'apparenza controllabili, sistemi addirittura di potere alla nascita dei bambini, la delega della questione del senso alla sola biologia. Forse quando il babbo è morto avrei dovuto sposarmi, e invece tempo 6 mesi mi sono lasciato. Sono rimasto con la mamma, anche se la mamma è a 3.000 chilometri. Così ora il destino viene a castigarmi per aver mosso in direzione contraria, insana. Dai, ma che mi finisce il credito. Cosa c'è? Cos'hai? Io? Niente, che c'entro io? Figurati. Ti prego, fai la seria. Oh, tranquillo Enrico, dai, tranquillino. Vieni allora? Prima dimmi cosa c'è. Ma niente, è su tuo padre, ecco. Sul babbo. Penso a mio padre, lì a decomporsi. Sembra che sia possibile farlo in una bara zincata, in un loculo di cemento chiuso da una lastra di marmoresina. Cosa vuoi decomporti? Se te ne sta lì rivestito di abiti e zinco e cemento, certo così non possono arrivare i vermi, a meno che non si formino da soli come si credeva una volta. Senza mosche o chissà quali esseri ictoni a deporre uova, niente larve e bigattini, niente vita dalla morte, te ne sta lì a seccare, a ridurre, a torrefare. Forse in alcuni casi, stanti determinate condizioni termoigrometriche, a mummificare. Cosa che mio padre, il professor Paolo Romanelli, farebbe senz'altro con modestia e un filo d'ironia, fino al giungere del momento di sgomberare il loculo, togliere la lapide, che poi dà nell'occhio lì al cimitero di San Giovanni Valdarno quella lapide con la stella di David, pare quasi un vezzo da originaloni, tirar fuori la carcassa di povero babbo, vedere se è mummia o mucchio d'ossa in completo blu. Neanche il kittel gli abbiamo messo, la stella sulla lapide sì, e il kittel no, tutto fatto a cazzo come sempre quando c'è la mamma di mezzo. O ancora assistere al mistero tremendo dell'inavvenuta decomposizione e consegnarla, a chi si consegna? All'ossario forse? Oppure a una tardiva cremazione, sarebbe curioso seppellire per poi cremare, equivarrebbe a sostenere che l'anima ha un certo tempo per andare dallo zinco ai grandi e giusti lidi, e il resto a quel punto è davvero solo spazzatura buona da bruciare, da termovalorizzare. Lo vogliono togliere? Cosa? Dico, lo vogliono rimuovere dal cimitero per far posto a un altro morto? E mi sovviene l'unica volta in cui vidi il babbo in qualche modo avventuroso e in qualche modo giovane. Una gita domenicale, io piccolo, 6 o 7 anni, la scoperta di un cimitero abbandonato dalle parti di San Gusmè, e lui un ragazzo che andava tutto pieno di esaltazione ad aprire cancelli e scoperchiare pozzi, fino al brivido gaio della scoperta. Oh, venite, qua c'è l'ossario! Ma come ti viene in mente, Enrico? No, figurati, dopo così poco tempo, poi... No, no, è una cosa sul babbo, sì, ma che ti riguarda? Insomma, vieni, è importante, te la devo dire di persona. Ti ricordo che il mio volo è tra 10, no, 11 giorni. Te l'ho preso. In che senso, ma? E ti ho comprato il biglietto, guarda nella mail. Ma se non sai neanche cercare una roba su Google? L'ho preso con l'agenzia. Parti domani. Domani quando? Alle 7 di mattina. Che, calcolando l'anticipo con cui si deve andare all'aeroporto da queste parti per farsi interrogare e perquisire, fanno le 3:30. Ed essendo ora le 23, mamma, Enrico, non fare storie, eh? Ma ti rendi conto del culo che mi son fatto con i corsi per strappare questo mese libero? È una cosa importante, davvero. Così importante che non me la puoi dire fra 10 giorni. Sarebbe troppo tardi. Insomma, vieni, fare storie. Ha a che fare con tuo padre, te l'ho detto. Manishma? A quella domanda, di cui comprendo solo l'intonazione, il suo essere appunto una domanda, la stanza riappare, riappaiono le bottiglie di birra, i quadri alle pareti, riappare il letto dietro di me e... come si chiamava lei? Shiran? Shiran, sì. Coi soli piedi coperti dalle lenzuola. What? I said Manishma, which means what's up? Oh, nothing, my mother. Ah, la mamma. Oh, ci facciamo sempre riconoscere. Listen, Shiran, I'm sorry, but I have to start dressing. You know, my mother, well, my mother is crazy. For real? Ride lei dal letto. That is something I'll discover tomorrow. Grazie, i fratelli. Michelangelo. Enrico. Grazie, Rialti, per la eccellente conduzione. Grazie alla Polveriera, il Festival di Letteratura Sociale continua con tantissimi meravigliosi eventi e dunque passo la parola a Simo. Sì, grazie Vanni che ci hai anche sostenuto sin dal primo anno, la prima edizione, e questa è la quarta, e lo rincontriamo indirettamente domani perché presentiamo il Giorno della Nutria di Zanno Meneghi, che è appunto curato in qualità di editor di Tunue. Ah, chi vuole il libro lo vende la FQ, ovvero anche la Cité lì fuori. Sostenete le librerie indipendenti, non lo comprate su Amazon. Gesù vi vede quando fate la foto in libreria e poi lo comprate su Amazon. E grazie anche a Edoardo, al suo apporto preziosissimo, che rincontriamo anche lui più tardi al tavolo sulla Grande critica Edoardo. Letteraria con Raffaello Palumbo Mosca, Gianluigi Simonetti e Francesca Matteoni. E adesso, tempo di sgomberare e cambiare, Alberto Prunetti ci accompagna nella presentazione di Il Taglio di Anthony Cartwright. Grazie, a fra pochissimo.